tu hai girato l'8 marzo, era un inferno, tutto che non funzionava, tutto bloccato. Però assurdo. Non si capisce, o almeno io non ho capito. 8 marzo, festa della donna uguale sciopero. Ma per cosa? Allora, l'hanno spiegato, insomma, per affermare che per sottrazione, cioè senza di noi, si ferma tutto. Ah. Ma il paradosso, come ha scritto Di Vigo sul Corriere... Che tu hai letto. Che io ho letto. Sì. E che alla fine hanno scioperato più uomini che donne. Cioè, assurdo. Ma sai qual è il punto, secondo me, Krav? Che non si può parlare così semplicisticamente di uomini e donne, queste categorie. Ma fa complicata di nuovo. Eh sì, perché gli uomini stanno cambiando. E lo dice sempre il Corriere. Perché lo spazio della 27esima ora, che di solito è dedicata alle donne, questa settimana, pensa un po', era per gli uomini. Quindi siamo arrivati alle quote azzurre. Ma finalmente magari, ci siamo arrivati. Mi piacerebbe un sacco. Comunque questa indagine è stata fatta su un campione di uomini, appunto, tra i 18 e i 72 anni. Perché esistono ancora? Cioè, dove li hanno trovati, vorrei capire. Ecco, a questi reduci hanno fatto tutta quanta una serie di domande. Sì. Tipo? Allora, tu quindi fai l'uomo. Ci provo. Brava, fai l'uomo. Allora, chi deve pagare? Ma che cosa? No, chi deve pagare a cena fuori in generale? Chi paga? Perché è una domanda questa. E vedi, cioè, che sei donna, non lo puoi fare l'uomo. Sono donna dentro. No. No. Invece, senti cosa hanno risposto gli uomini. Sì. Per il 40%, se paga lui, si sta comportando da gentiluomo. Sì. Per il 6%, però, invece, lui ha secondi fini. Che poi non ho capito un male. Ma magari adesso, ecco, secondi fini, almeno vai a cena e dopodiché non, insomma, lo dire. C'è un motivo non lo di dire. Questa cena, ecco. Però guarda, ti leggo un altro dato. Ah, che... l'ho notato anch'io. C'è scritto, vai. Scritto il 228%, cioè il 228% dovrebbe fare a metà. Ma tu rifletti sul 228% o sul fare a metà? Ma io direi su tutti e due. E poi comunque c'è un'altra domanda, ovvero cosa piace alle donne di un uomo? E attenzione, perché rispondono sempre gli Quindi uomini. Quindi penso da uomo io. Sì. Ok, allora devo dire che anche su questo punto si capisce che la ricerca è fatta molto bene, perché la prima risposta è dettagliata. Dipende dalle donne, per il 38% dipende dalle donne. Ma senti le altre però. Allora, sì. Al secondo posto abbiamo, attenzione, attenzione, dimmi, il senso dell'umorismo. Beh, ci sta, ci sta. Sì, sì. Lo metterei al primo quasi. Al terzo posto il conto in banca. Ah no, questo è il primo. Ma come sei Gretta, Cravetto? Più che Gretta, concreta. Vado va al bene, punto. Va bene, Cravetto. Poi c'è l'intelligenza, il saper ascoltare, sì, la cura del corpo, sì, e poi l'essere ribelle. Sono ancora convinti che se fanno i ribelli ci piacciono un sacco. Ma sì, cioè, perché cosa siamo fa sempre ribelle? Cioè, scappa. Ah. Perché siamo lì, appunto, in amor vince chi fugge. Sì. Però, come diceva Marta Marzotto, sì, al quinto posto del suo decalogo c'è una cosa molto importante su cui torneremo. In amor vince chi fugge, ma a patto che qualcuno ti insegua. Ecco, soprattutto c'è un finale in più sul decalogo. Alla fine, fatevi trovare. Lo vedi che lo conosci? Capita davvero che una rinuncia valga più di una conquista. È la storia di Tamara Lunger e sembra fatta apposta per dimostrare che per vincere bisogna saper perdere. Tamara Lunger ha 30 anni ed è una delle alpiniste d'alta quota più forti del mondo. Di Bolzano, sportiva da sempre, nel suo libro Io, gli 8.000 e la felicità dice di sé: sono una sognatrice innamorata delle montagne. Il sogno è quello di scalare gli 8.000. Tamara ce la fa nel 2014 conquistando la vetta del K2 ed è la seconda donna italiana nella storia dell'alpinismo. Nel febbraio del 2016 arriva un'altra grandissima occasione. Insieme a Simone Moro parte alla conquista del Nanga Parbat. Sarebbe la prima donna al mondo a raggiungere gli 8.000 in invernale. Dopo oltre 80 giorni passati nei vari campi della montagna, in attesa della giusta finestra di bel tempo, affrontando venti gelidi e temperature che toccano anche in meno 50 gradi, è costretta a rinunciare alla vetta a soli 70 metri dal traguardo. Tamara Lunger, 70 metri a noi comuni pedoni sembrano nulla, ma sul Nanga quanto ci avrebbe messo a percorrerli? Ma sicuramente ancora un'ora e magari anche un po' di più, perché ero così cotta e finita che facevo 2-3 passi e poi dovevo già di nuovo riposare per 1-2 minuti per riprendere il fiato. Ecco, ma come si respira a 8000 metri? Ovviamente è un po' più duro che qui alle basse quote, però una volta se si è fatto un buono acclimatamento, dormendo anche su nei campi alti 6000-7000 va tutto un po' meglio, ma in questa spedizione Simone e io abbiamo fatto solamente una notte su 6200 metri e quindi per noi era veramente pochissimo l'acclimatamento prima di partire per la vetta e quindi sapevamo già che poteva essere un punto debole nostro. Ecco, proprio Simone Moro ha detto che la tua rinuncia è stata un atto di grande coraggio e altruismo, perché hai scelto di salvare la tua vita e quella degli altri compagni. Ecco, ma tu sei riuscita a sentirla come una vittoria più grande della conquista della vetta? Sì, quando è passato un po' di tempo. Sicuramente quando sono ritornata al campo 4 in tenda, che gli altri erano tutti stati sulla vetta, certamente avevo un po' un minuto di tristezza, però poi essendo a casa, pensando a cosa era successo, adesso mi sento molto più ricca di, tra virgolette, solo una vetta. Ho imparato tantissimo e sicuramente di più che in ogni altra spedizione. Nel tuo libro racconti anche che quello dell'alpinismo di alta quota è un mondo prevalentemente maschile e che gli alpinisti possono sembrare marinai appena scesi da una nave. Ecco, ma come ci si comporta allora? Io devo dire che mi sento quasi come un maschio, perché dopo qualche giorno, dopo una settimana, ti trattano già quasi come un uomo, ti parlano delle storie con le donne, quindi per me è molto normale. Nel tuo libro racconti anche di avere il dono della fede. Dio è il mio capo cordata, scrivi, e la fede è la certezza che ti permette di trovare la forza di andare avanti. Ecco, ma è stata la fede a darti anche la forza di tornare indietro a 70 metri dalla meta? Magari non solo, ma sicuramente era un grande punto, perché in queste quote c'è un'altra energia, sento molto di più me nel contesto dell'universo, della natura, e poi già parlando anche nella salita con Dio, erano tante cose o 3-4 cose che erano lì insieme che mi hanno fatto capire: no, oggi non è proprio il giorno per te di salire su questa cima. Era magico, veramente magico, perché avevo voglia certamente di andare in cima, ma allo stesso momento, con ogni passo che ho fatto, ero talmente finita, ho vomitato tutto il giorno, non potevo bere, tirava sempre il vento. Poi certamente quella frase, se adesso vai in cima non ritorni più a casa, era così forte che non potevo altro che scendere. A quando il prossimo appuntamento con il Nanga? Ah, non lo vedrò più, magari dall'aereo, ma non... Non pensi di tornare? Sono totalmente in pace con questa montagna, mi ha regalato tantissimo e voglio che rimane una esperienza unica su una montagna eccezionale e bellissima. Tamara Lunger, Io gli 8000 e la felicità, Rizzoli. Ale, certo che arrivare a 70 metri dalla cima e doversi dire io non ce la faccio è dura, tostissima, però, credo che non ci vuol tornare su quella montagna. Ho capito, lì. Però scusa, sarà piuttosto l'idea a casa non ci torni più poi. Arrivi sì, in cima sì, ma non ci torni ragione. Più. Però c'è una cosa che è ancora più difficile. Cosa? Che non è tanto tornare a casa, ma è staccarsi da casa. Perché a casa c'è la mamma. Cercasi, chirurgo bravo per l'isigomi. Ovunque vada paga lei, ma con i soldi miei. Ma scusami, abbiamo cambiato sigla? Occidentalis mamma, è stupenda. Brava, lo sai, brava, questa è bellissima. Allora la teniamo sempre. Sempre, va sentita tutta. Esatto, va sentita comunque tutta. In questo nostro spazio dedicato alle mamme, Abbiamo visto che la scorsa settimana abbiamo parlato più di papà. Hanno parlato tutti Hanno parlato di papà o meglio di babbo, no? Ah, ma tu parli di babbo Tiziano, che io però non ho capito, babbo Tiziano Ferro? Certo, ecco, lui, okay, certo. Va bene. Però da babbo Tiziano improvvisamente è tornata alla ribalta la mamma. Ah sì? Ecco, sì. Perché? Sì. Allora, perché Laura Comi... Sì. Europarlamentare che nel 2009 era a Bruxelles, sì. Quando è partita, chi voleva accanto a sé come assistente? Non dirmelo. Te lo dico, proprio lei. Non dirlo. La mamma. Cioè pagata? Ma sì. Da chi? Da lei? No, era pagata in realtà dai fondi europei, tanto che adesso è partita questa inchiesta e lei dovrà ridare indietro tutti quanti i soldi. Però lei ha giustificato questa scelta con delle motivazioni molto forti. Allora, ah, sì? Prima di tutto ha detto che lei comunque era giovane, aveva soltanto 26 anni. Una bambina. Si sentiva un po' adolescente. Sola. Va bene. Poi che essendo a Bruxelles la sua mamma le poteva tornare molto utile perché le teneva l'agenda e certo. Appunto le stava vicino. Però ha avuto l'ultima delle motivazioni, ancora? Secondo me, la sicura? Più forte di tutti. Sì? Perché queste erano già forti. Sì, però senti questa, perché era insegnante di italiano. La mamma? Sì. Ma a Bruxelles non si parla francese? Appunto. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Achilli, 25 anni, romano, qualche anno fa, quando ne aveva solo 18 di anni, ha creato Egomnia, una piattaforma basata sulla meritocrazia, dove chi cerca lavoro viene classificato secondo determinati criteri come il voto alla maturità, i titoli di studio e il numero di esperienze professionali. E dall'altra parte le aziende possono così avere una preselezione automatica del candidato. La sua storia di giovane start-upper è diventata un simbolo, tanto che il prossimo 6 aprile uscirà nelle sale come film con il titolo The Startup. Matteo, buongiorno. Qualcuno ti ha già ribattezzato lo Zuckerberg italiano, ma c'è qualcosa di vero in questo? Sì, sono stato ribattezzato così. Sicuramente è qualcosa che mi fa piacere, che aiuta anche a essere mediatico, però con il passare del tempo mi piacerebbe anche, diciamo, discostarmi da quel nome. Però una cosa oltre al paragone al personaggio c'è: Egomnia assomiglia a Facebook, con la differenza che se su Facebook ci si incontra per fare amicizia, su Egomnia ci si incontra per lavoro, giusto? Sì, esatto, è uno strumento nato proprio per aiutare i giovani, il target nostro sono gli under 35, a trovare lavoro o a trovare uno stage. Le aziende dall'altra parte possono appunto ricercare un personale qualificato. Ecco, quanti sono i profili dei ragazzi che si sono registrati ad oggi su Egomnia? 850.000 candidati che si sono iscritti e 1.250 aziende aderenti, e i trend sono in forte crescita. Senti, la tua idea nasce nel 2012. Ai tempi studiavi alla Bocconi, Zuckerberg si stava quotando, Passer, allora ministro, aveva fatto il decreto startup e la Bocconi, grazie al presidente Monti, era la facoltà sulla cresta dell'onda. Ecco, quanto ha contato questo contesto storico nella riuscita del tuo progetto? Moltissimo, moltissimo. Infatti il momento in cui ho lanciato Egomnia è stato il momento perfetto. Io ho iniziato l'iniziativa con un capitale molto basso che è stato dato dalla mia famiglia, tra l'altro che non stava passando un buonissimo momento, e mi ritrovavo con questa bella idea, con questo progetto che stavo realizzando, però nessuna azienda si era iscritta alla mia piattaforma. Poi ho iniziato a coinvolgere gli studenti dell'università raccontandogli la mia idea, il mio progetto, e facendogli vedere tutto quello che avevo realizzato, e c'è stata una promozione di questa iniziativa dal basso, quindi il ragazzo di 20 anni con il social network italiano che ti aiuta a trovare lavoro era quello su cui puntare. Matteo, quindi tu sei partito con un capitale di 10.000 euro da solo, e invece oggi quanto fatturi e quante persone lavorano per te? Il fatturato va dai 300 ai 400.000 euro all'anno, e quindi diciamo già riuscire con prezzi molto bassi e competitivi, addirittura alcuni servizi totalmente gratuiti, a creare un volume d'affari di un centesimo al secondo è già importante. Comunque, Matteo, la tua storia è stata talmente di successo che la BBC l'ha inclusa nella sua serie The Next Billionaires. Ecco, eri l'unico italiano? Sì, sono stato l'unico italiano inserito e anche lì è stato molto bello per me, perché appunto mi ha permesso di essere conosciuto anche al di fuori dell'Italia. Il 6 aprile prossimo uscirà il film The Startup, che è il racconto della tua vita. Ecco, perché secondo te la tua storia più di altre è diventata il simbolo di questa generazione? Questa storia è una storia di un ragazzo normale, quindi non un genio, che non ha nulla più degli altri, che però rimboccandosi le maniche, non volendo pretendere o aspettare che qualcuno gli dia qualcosa, se la va a prendere. Beh, bravo, bravissimo, un po' come Morandi, uno su mille ce la fa, esatto. Però anche chi ci prova ce la fa. Esatto. Scusa, lo sai tu che lui non è il primo a dirlo e che lo aveva già detto qualcun altro oltre a Morandi? Vado a caso, indovino? Vai. Michela Marzotto. Brava, brava, perché al punto 5, mi sembra, sempre al 5 del decalogo. E a sto punto leggeremo tutto, tutto. A un certo punto. La prossima puntata lo recitiamo tutto quanto. Tutto il decalogo della contessa, sì. Esatto, lei dice... Accennate il primo passo, se vi va, sì. Potete avere chi volete. Ecco, volevo solo spiegarti che in Dimmi. Questo caso era potete ottenere cosa volete. Ma certo, è lo stesso! I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno! Sto ancora pensando a quelli che hanno vinto l'Oscar e poi sono andati a prenderlo e gliel'hanno levato. Ma tu che facevi se ti succedeva? Eh beh, Donatella, in effetti è abbastanza clamorosa come gaffe. Io non glielo ridavo per niente. Ormai l'avevo preso e me ne andavo. Che mi facevano? Me lo mettevo dentro al vestito e me ne andavo. Donatella, hai d'accordo, capito? Ho capito. Senta, invece è andata per noi a vedere il nuovo film di Ferzan Özpetek. Ce lo racconta? No. No, perché? No, non ci sono andata. E perché non c'è andata? Dovevo vedere il film di questo Özpetek. Oh, però no. Poi va bene, ho però? Visto, però poi ho visto la pubblicità di un attore, sai quello bello, con tutte le mimose e basta. E siccome diceva, festeggia l'8 marzo con me, io ho pensato, festeggiamo. Perché lei sta parlando della pubblicità del film La luce sugli oceani, quello con Michael Fassbender, che è stata fatta per la festa della donna, quella che ha creato tanto scalpore, quella. Allora, lo scalpore non si vede. Però il film l'ho visto. Mia sorella ha affrontato una terribile tragedia. Il marito e la sua bambina risultano dispersi in mare. La piccola adesso avrebbe l'età di vostra figlia. Non appartiene a noi. Non possiamo tenerla. È sua madre. Sono io sua madre. Insomma, ci sono questi due. Lui è un soldato che ha visto cose bruttissime in guerra e è molto stressato. Beh. E lei è una giovane donna e lo sposa. Questi sì. due però non riescono ad avere un bambino. Però un giorno ne trovano uno portato dal mare per colpa di un naufragio. Boh, no. Va bene. E che fanno? Che altro succede? Che fanno? Se lo prendono. Ah. Lo crescono, solo che un giorno così, down plane, si presenta una tipa che dice di essere la vera madre. E lì si scatena il dramma, nel senso che il ritratto psicologico di questi tre personaggi è davvero molto profondo. Ma Donatella, io sono basita. È una cosa buona? Ma Donatella, voglio dire che io sono sorpresa da come lei ha descritto la trama del film e anche dal lessico che sta usando. Ma io non sto usando il lessico, sto dicendo parole mie, mica copio. Ma io non ho detto che copia. E comunque, se proprio lo vuoi sapere... mi sono scritta solo il cast, così lo dico bene. Dica allora, dica. Allora, la regia di Derek Cianfrance. Ah, bene. Oh. Meno male essere scritta, poi? Hai riso. No. Poi? Poi c'è questo Fassbender. Sì. E c'è Alicia Vikander, eppure è la fidanzata di Fassbender. Quella vera? Un po' beata. Sì. E poi c'è Rachel Weisz. Perfetto. Ecco. Senta, ma La luce sugli oceani è un bel film, lei ce lo consiglia? Guarda, vale la pena, se hai pazienza, ti piacciono i film nei cui non di quali? Devi capire, dei cui devi capire i sentimenti, perché se invece ti piacciono quelli in cui si sparano e si danno un sacco di botte, no. E poi questo Fassbender non è nudo e non ha le mimose addosso. Quindi se andate per quello non vale la pena. Ah, va bene, Donatella, grazie, non fa una piega, perfetto. Prego, ma tu ci andavi per le mimose nude? Arriva Franco Schipani. Buongiorno Franco. Buongiorno, ciao Ale. Allora, che Franky, bello di vederti qui oggi con noi. È tornata. E senti che voce. E quindi It's a beautiful day. È tornata, lo diceva anche Alberto Sordi quando voleva buttare la moglie. È tornata. Non è il nostro caso. È svegliato. Allora Frank, però volevo, sei insomma sulla palla, perché volevo dirti che abbiamo parlato fino adesso di uomini e di questa indagine che hanno fatto. C'era una domanda che però abbiamo tenuto per te, che è: come mi penso? Un uomo che non puoi andare a caso, però non sei libero, hai delle opzioni che devi rispettare, giusto Kras? Sì, vai. E allora passeggia per mano a un partner, legge un libro, sta partendo, porta i figli ai giardini. Franky, come mi vedo io? Sì. Guarda, io per aumentare le mie possibilità vado in aeroporto, mi metto un libro sotto braccio, la sotto il braccio, lo devi dire. Sotto il braccio, possibilmente una cosa divertente. Mi prendo una mia cuginetta di 4 anni e passeggio, e quindi ho più possibilità. Perché sono in aeroporto. No, però vedi che non ha capito la domanda. L'aeroporto non c'era. Ma come no? La cosa avventurosa. Si parte. Comunque ti posso dire la migliore risposta da uomo del mondo. Perché la domanda era: come mi penso un uomo che... E lui ha pensato: come rimorchio meglio. Non era questa la domanda? No, avevo capito male. Ma va benissimo così. Grazie. Mi è piaciuta un sacco la risposta. Franky, sei pronto ad andare nel nuovo millennio? Oggi andiamo nel 2000. Ciao ragazzi. Buon 2000. Ciao. Grazie Grav. Allora Franky, il 2000, subito dopo la pubblicità. Ciao.